anni di blocco e anche di riflessione e di discussione, insomma, per cui l'idea era quella di partire con un nuovo progetto. Il nuovo progetto appunto si chiama Giochi Antirazzisti, perché abbiamo voluto fondamentalmente cambiare anche le parole, perché la pandemia è stata una forma di guerra, è uscito quasi un linguaggio di carattere guerresco a cui noi ci siamo assuefatti, quasi abituati, e adesso è arrivata una guerra alle porte dell'Europa. Non che le altre guerre non ci fossero, non ci siano ancora, ma sono un po' più dimenticate. Questa invece ci sta toccando nella quotidianità, e anche i più moderati insistono con un linguaggio da guerra, e per quello che noi volevamo appunto insistere sulla parola giochi, perché il gioco è giocare insieme, lo stare insieme, e per riuscire forse a depotenziare quella parte dello sport che nell'accezione dello sport moderno è comunque una metafora della guerra, e riuscire a decontestualizzare il tutto, organizzare un'iniziativa che parlasse di come gestire i conflitti, come gestire la relazione con l'altro attraverso il gioco. Mondiale è una parola troppo competitiva. Assolutamente, sì, sì. È un nuovo progetto. In questo caso mondiale era una parola troppo competitiva, ma ripetiamo, cioè nel senso, prendiamo dall'esperienza del passato ma guardiamo il futuro. Pensiamo che molto sia cambiato e forse bisogna proprio ripartire anche dalla radice della parola gioco, per uscire forse anche a rieducarci attraverso il gioco, e riuscire forse a dare un'altra interpretazione a quello che, all'accezione attuale che diamo dello sport. A proposito del bagaglio del passato, le iniziative, insomma, fino a quando si è potuto svolgerle erano molto comunitarie, ma questo ancora di più anche, come dire, per il sostegno economico, e proprio oggi parte un crowdfunding. E anche su questo c'è una forte cesura, appunto per questo un nuovo progetto, perché parte proprio con l'idea, partendo da Bologna, poi allargandola chiaramente a varie altre realtà nazionali e internazionali, di condividere un percorso dalla base con le realtà associative, con le realtà aggregative della città intanto, e portare avanti insieme anche i contenuti, lavorare insieme anche sui contenuti. E da questo punto di vista poi il crowdfunding, la forma anche di autofinanziamento e di autosostegno, è una forma che ci coinvolgerà da adesso, da oggi, per i prossimi 90 giorni, 97 giorni, in attesa di Giochi Antirazzisti. Speriamo che la risposta sia buona, insomma, perché con un po' di finanziamenti riusciremo chiaramente a creare una situazione più gradevole, insomma, ci necessitano, insomma, per far funzionare le cose. Ci sarà occasione di raccontare questa nuova iniziativa nel dettaglio, ma intanto abbiamo detto cambia anche il nome per una riflessione attorno alle parole. Qualche altro dettaglio che ci puoi dare? La location, il posto è per sé è il Centro Sportivo Bonori, per il più è noto come Centro Sportivo Dozza, a ridosso del Parco Nord, in una situazione in cui abbiamo di fianco Piazza Grande e all'interno del Parco Nord anche Casa Macheba, per cui due realtà che accolgono i rifugiati, i profughi, e di per sé, per cui anche questo, spostarci e fare la cosa in città, in un luogo di cerniera tra il centro e la periferia, con spazi molto vuoti e aperti da riempire, ecco, noi vorremmo riempire di persone ma anche di contenuti questi spazi. Allora, come è possibile sostenere i giochi antirazzisti? I giochi antirazzisti si possono sostenere andando su Facebook Giochi Antirazzisti, e là ci sono le indicazioni che daranno la possibilità di entrare direttamente nel crowdfunding, che abbiamo fatto con produzioni dal basso, e si possono sostenere con una cifra modica che è quella di 10, 20 o 50 euro, che già comincia a essere in questo periodo un po' più robusta, ma per chi avesse poi molte risorse anche qualcosina in più, insomma. Questa è la prima modalità, quella di carattere economico, o se no scrivendo a giochiantirazzisti@gmail.com, o appunto rispondendo a Facebook o a Instagram, perché abbiamo anche Instagram, e per qualsiasi cosa, insomma, voglia di partecipare, voglia di aderire, voglia di contribuire a realizzare l'iniziativa, noi ci siamo.